Il terzo anello ad alta voce, I mandarini di Simone de Beauvoir. Nei periodi in cui Robert stava in clausura, m'accadeva spesso di uscire senza di lui. Ma questa sera, uscendo nel buio, freddo, rimpiangevo di aver accettato l'invito di Scriassin. Oh, mi capivo bene, ero un po' stanca di vedere sempre le stesse facce. Così avevo ceduto all'attrazione della novità. Ma che cosa ci saremmo detti? Il bar del Ritz era pieno di ufficiali americani e di donne ben vestite. Il calore, l'odore delle sigarette, il profumo tagliente del gin mi salirono subito alla testa e mi sentii contenta d'esser lì. Scriassin aveva passato 4 anni in America, il gran paese liberatore, il paese dove le fontane sputano fiotti di succo di frutta e di ice cream. L'interrogai avidamente. Rispondeva di buona grazia mentre io finivo un secondo martini. «Sapete, siete così riposante», disse Scriassin. «V'ho subito trovata riposante. Avete l'aria d'una giovanetta ben educata che lascia discorrere i grandi». «Ho una figlia di 18 anni», dissi. «Questo non vuol dire niente. D'altra parte non posso soffrire le adolescenti, ma una donna che somiglia a un adolescente è un incanto». Dopo avermi esaminata con minuzia, aggiunse: «Scommetto che non ci sono stati molti uomini nella vostra vita». «È vero», dissi. «Perché?» «Non ci sono state occasioni». «Se non ci sono state è che non le avete cercate». «Per tutti non sono che la moglie di Dubreuil o la dottoressa Anne Dubreuil. Questo non ispira che rispetto». Rise. «Io non sono talmente tentato di rispettarvi». Ci fu un piccolo silenzio. Poi dissi: «Perché una donna libera dovrebbe andare a letto con tutta la terra?» Mi guardò severamente. «Se un uomo per il quale aveste qualche simpatia vi proponesse senza altri preamboli di passare la notte con lui, che fareste?» «Dipenderebbe». «Da che?» «Da lui, da me, dalle circostanze». «Supponiamo che ve lo proponga io, adesso». «Non so». Da che parte tirasse il vento, l'avevo capito già da un pezzo, ma mi trovavo ugualmente presa alla sprovvista. Ordinò altri 2 whisky. No, non avevo voglia di andare a letto con lui, né con nessun altro. Il mio corpo era da troppo tempo immerso in un torpore egoista. Per quale perversione avrei disturbato il suo riposo? Nadine m'accusava di non togliermi mai i guanti. Era vero? Cosa sarebbe accaduto se me li fossi tolti? Se non me li fossi tolti questa sera, me li sarei poi tolti mai più? «La mia vita è finita», mi dicevo, ma contro ogni ragione mi restavano ancora molti anni da far passare. Dissi bruscamente: «Va bene, sarà sì». «Oh, ecco una buona risposta». «Vorrei un caffè, ho paura d'aver bevuto troppo». Sorrise. «Un'americana chiederebbe un altro whisky, ma avete ragione, non starebbe affatto bene se uno di noi due non avesse più tutta la propria testa». Ordinò 2 caffè e ci fu un silenzio imbarazzato. «Saliamo in camera mia». «Subito». «Perché no? Vedete bene che non troviamo più niente da dirci». In camera mi rifugiai nel bagno. Feci una toeletta frettolosa respingendo tutti i pensieri. Era troppo tardi per pensare. Mi raggiunse nel letto prima che alcun'idea avesse avuto il tempo di levarsi in me e io mi aggrappai a lui. Adesso lui era la mia sola speranza. Non provai gran cosa quando entrò in me. «Guarda», disse. Scossi debolmente la testa. Quel che accadeva laggiù mi concerneva così poco che, se avessi guardato, mi sarei fatta l'effetto d'un voyeur. Disse: «Hai vergogna. La bambina ha vergogna». Questo trionfo lo occupò un momento. Poi di nuovo parlò. «Dimmi cosa senti. Dimmelo». Restai muta. Indovinavo una presenza in me senza veramente sentirla, come ci si stupisce del ferro del dentista in una gengiva intorpidita. «Senti piacere? Voglio che tu senta piacere». Mi strinse con foga. Poi di nuovo entrò in me. «Voglio che tu goda con me, nello stesso tempo. Vuoi?» Mi dirai: «E adesso?» Pensai con fastidio. Ecco cosa hanno trovato. La sincronizzazione. Come se provasse qualche cosa. Come se potesse sostituire un'intesa. Saremmo stati meno separati se avessimo goduto insieme. Sapevo bene che il mio piacere non avrebbe avuto eco nel suo cuore, e se attendevo il suo con impazienza era soltanto per farla finita. Tuttavia ero vinta. Accettavo di sospirare, di gemere. Non molto abilmente, immagino, visto che mi chiese: «Non hai goduto?» «Ma sì, ti assicuro». Doveva esser vinto anche lui, perché non insisté. Quasi subito s'addormentò contro di me e anch'io mi addormentai. Il suo braccio attraverso il mio petto mi svegliò. «Questa notte è stata un fallimento». «Più o meno». «Allora è meglio non ricominciare». «È quel che penso anch'io». Non gliene ho voluto, né a lui e quasi neppure a me stessa. Solo che, quando rientrai in camera mia, mi promisi di non togliermi mai più quei miei guanti di capretto lucido. «È troppo tardi», mormorai dandomi un'occhiata allo specchio. «Ormai ho questi guanti incollati alla pelle. Per toglierli dovrei scorticarmi». Henri si sentiva pochissimo a suo agio il giorno che raggiunse Nadine sulla banchina della Gare d'Austerlitz. Salirono sul treno e scelsero uno scompartimento vuoto. Nadine restò un bel pezzo piantata tra i due sedili, poi sedette accanto al finestrino, di spalle rispetto al senso di marcia. Aprì la valigia e cominciò a installarsi con la minuzia meticolosa d'una vecchia signorina. Mise una veste da camera e le pantofole, s'avvolse una coperta intorno alle gambe, s'accomodò un cuscino dietro la testa. Dalla sporta che le serviva da borsa prese un pacchetto di gomma da masticare. Allora si ricordò della presenza di Henri e sorrise con aria invitante. «Ha strillato Paul quando ha visto che mi portavi davvero?» Henri alzò le spalle. Evidentemente non le ha fatto piacere. «Cosa ha detto?» «Niente che ti riguardi», rispose secco. «Ma mi piace sapere». «A me non piace raccontarti». Nadine prese dalla sporta un lavoro a maglia scarlatto e si mise a sferruzzare, sempre masticando. «Adesso esagera», pensò Henri irritato. Forse lei lo provocava apposta, perché sospettava che i suoi rimorsi s'attardassero nello studio rosso. Paul l'aveva abbracciato senza lacrime. «Fa un bel viaggio». Ma adesso certo piangeva. «Le scriverò subito, appena arriviamo», pensò. Nadine per un po' continuò a lavorare a maglia con applicazione. Poi si stese sul sedile, si mise due palline di cera nelle orecchie, si bendò gli occhi con un foulard e gli volse la schiena. «E io che speravo nei suoi sorrisi per compensare le lacrime di Paul», si disse Henri con ironia. Perché dunque si trovava in questo treno, con questa estranea dal respiro rumoroso? «Potrebbe essere un po' più amabile, però», si disse l'indomani mattina sulla strada che portava a Irun. Una barriera s'era chiusa dietro di loro. per la prima volta da 6 anni, egli calcava un suolo che non era francese. Un'altra barriera s'aprì davanti a loro ed egli intese il grido di Nadine. Oh, un gemito appassionato, quel gemito che invano Henri aveva cercato di strapparle con le sue carezze. Oh, guarda! Sul margine della strada, presso una casa incendiata, era sistemato un piccolo emporio, arance, banane, cioccolato. Nadine aveva ritrovato il buon umore. Si rimpinzò di frutta e di dolciumi attraverso le campagne basche e i deserti castigliani. Guardava sorridendo il cielo di Spagna. Passarono ancora una notte coricati su sedili polverosi. La mattina dopo seguirono un torrente azzurro pallido che serpeggiava tra gli olivi e che presto si cambiò in fiume, poi in lago. E il treno si fermò. Lisbona. Una fila di tassi attendeva sul piazzale della stazione. «Lasciateci in qualche posto al centro», disse Henri all'autista. Il tassi si fermò in una grande piazza di cinematografi e di caffè. Ai tavoli erano seduti uomini vestiti di scuro. Non una donna. Le donne s'accalcavano in una strada piena di negozi che scendeva verso l'estuario. Henri e Nadine presero questa strada. Si fermarono subito a bocca aperta. «Ma vedi? Cuoio. Vero cuoio, spesso e morbido, di cui si indovinava l'odore». Valigie di cinghiale, borse da tabacco fulve e soprattutto queste scarpe dalle spesse suole di para, scarpe con le quali si camminerebbe senza far rumore e senza bagnarsi i piedi. Vera seta, vera lana, completi di flanella, camicie di popelin. Henri s'accorse improvvisamente d'essere piuttosto male in arnese col suo vestito in tessuto autarchico e le sue scarpe screpolate e ritorte in punta. E fra tutte queste donne che portavano pellicce, calze di seta, scarpette fini, Nadine aveva l'aria d'una straccione. «Ma guarda», continuava a ripetere Nadine, «ma guarda, ti immagini cosa direbbero quelli di Parigi se vedessero? Ma come mai sono così ricchi qui? Credevo fosse un paese povero». «È un paese povero dove ci sono persone molto ricche». Comprarono per sé e per quelli di Parigi stoffe e biancheria, calze, scarpe, maglie, andarono a colazione e mangiarono spesse bistecche color di cenere. Poi, calzati entrambi di scarpe d'un giallo aggressivo ma dalle suole lussuose, scalarono le strade selciate che salivano verso i quartieri popolosi. A un incrocio, bambini dai piedi nudi guardavano senza ridere una scolorita baracca di burattini. Le strade diventavano vicoli, tra muri scalcinati. Il viso di Nadine si rabbuiò. «Che orrore», disse. «Andiamo via». «Oh, continuiamo ancora un po'», disse Henri. A Marsiglia, a Napoli, al Pireo, nel Barriocino, aveva errato per ore in quelle stradette rumorose. E certo anche allora, come oggi, s'era augurato che tutta quella miseria sparisse. Ma quel voto era rimasto astratto. Mai aveva desiderato di fuggire. Quel violento odore umano lo stordiva. Nei bassi, aperti sulla strada, non un letto, non un mobile, non un'immagine. Pagliericci, bambini coperti di sfogo, di tanto in tanto una capra. Fuori, non una voce gaia, non un riso, occhi morti. La miseria era più disperata qui che nelle altre città. O forse il suo spettacolo, alla lunga, l'aveva reso più sensibile invece di indurirlo. Henri si sentì invadere anche lui dalla costernazione muta di Nadine. Incrociarono una donna vestita di stracci neri, un bambino al petto che correva con lo sguardo allucinato. Henri disse bruscamente: «Hai ragione, andiamo via». Thank you. Henri era contento di lasciare Lisbona. I servizi francesi gli prestavano un'automobile perché facesse comodamente il suo giro di conferenze e li invitavano a disporne per tutto il tempo che volesse. Finalmente, dunque, delle vere vacanze. Stavano cenando in un'osteria dall'altra parte del Tago. Avevano davanti a sé dei filetti di merluzzo fritto e una bottiglia di vino d'un rosa sporco. Attraverso i vetri si vedevano le luci di Lisbona, librate tra il cielo e l'acqua. «In 15 giorni con un'automobile sa il tempo di vedere una quantità di cose», disse Henri. «Ti rendi conto della fortuna che abbiamo?» «Stiamo per fare un bellissimo viaggio e guarda quelle piccole luci sulla riva. Com'è bello!» «Cosa hanno di bello?» chiese Nadine. Ecco il genere di domande irritanti che le piaceva fare. Henri alzò le spalle ed ella riprese. «No, seriamente, perché trovi che è bello?» «Ma così, perché mi pare bello, è tutto.» Nadine appoggiò la fronte contro il vetro. «Sarebbe forse bello se non sapessimo quel che c'è dietro, ma una volta che lo sappiamo...» «Ancora una truffa», concluse con astio. «Detesto questa sporca città.» Era una truffa, senza alcun dubbio. Guardò Nadine, 18 anni, e non un miraggio nella sua memoria. Lui, almeno, aveva avuto un passato, e un presente, e un avvenire, protestò tra sé e sé. «Per fortuna ci sono ancora cose che è possibile amare.» E ce n'erano davvero, per fortuna. Che piacere ritrovarsi di nuovo un volante sotto le mani e queste strade davanti a sé a perdita d'occhio. «Come andiamo forte! È formidabile!» diceva Nadine. «Ma sei già andata in giro in macchina, no?» «A Parigi, nelle jeep, ma non ero mai andata così forte!» A darle retta non si sarebbe mai dovuto scendere. Quel che le piaceva era correre il più possibile tra la strada e il cielo. Si interessava appena al paesaggio, che pure era bellissimo. Nel meridione, dal profumo africano, piccoli asini giravano in tondo per strappare un po' d'acqua al suolo arido. Di tanto in tanto, tra agavi azzurre che pugnalavano la terra rossa, la falsa frescura d'una casa liscia e bianca come latte. Poi risalirono verso il nord, lungo le strade in cui le pietre parevano aver rubato ai fiori i loro colori più violenti, dei viola, dei rossi, degli ocra. E poi i colori ridivennero fiori tra le dolci colline del Migno. Sì, un bello scenario, e che passava troppo presto perché s'avesse il tempo di pensare a quel che c'era dietro. Lungo i costoni di granito, come sulle strade brucianti dell'Algarve, i contadini andavano a piedi nudi, ma non se ne incontravano spesso. Fu a Porto la Rossa, dove il sudiciume ha il colore del sangue, che la festa ebbe fine. Sulle mura di tuguri ancor più scuri e umidi di quelli di Lisbona, pullulanti di bambini nudi, erano appesi dei cartelli. Insalubre. Divieto di abitare qui. Bambinette di 4 o 5 anni vestite di sacchi bucati frugavano nei secchi delle immondizie. Per mangiare, Henri e Nadine si nascosero nel fondo d'un locale stretto e scuro, ma indovinavano i volti incollati ai vetri del ristorante. «Detesto le città», disse Nadine con furore. Salirono in macchina e per un poco viaggiarono in silenzio. Poi Nadine disse con una voce rauca: «Avremmo dovuto andare in un altro paese.» «Dove?» «Non lo so, ma tu dovresti saperlo.» «No, non lo so neanch'io.» «Ma dovrebbe esserci un paese dove si possa vivere.» Scoppiò bruscamente in lacrime. Henri la guardò stupito. Le lacrime di Paul erano naturali come la pioggia. Ma veder piangere Nadine era quasi così imbarazzante come vedersi inghiozzare Dupreuil. Le passò un braccio intorno alle spalle e la tirò a sé. «Non piangere, non piangere», le carezzava i capelli. Perché non aveva saputo farla sorridere? Perché aveva il cuore pesante? Nadine s'asciugò le lacrime e si soffiò rumorosamente il naso. «Ma tu, quando eri giovane, sei stato felice», disse. «Sì. Sono stato felice.» «Vedi? Ma anche tu un giorno sarai felice.» Avrebbe dovuto stringerla più forte, dirle: «Sarò io a farti felice.» In quel momento ne aveva voglia, una voglia d'un istante di impegnare tutta la propria vita. Non disse niente, pensò bruscamente: «Il passato non ricomincia. Il passato non ricomincerà.» In uniforme di corrispondente di guerra, Vincent agitava il braccio sorridendo. «Salute ai viaggiatori!» disse allegramente. Fischiò d'ammirazione. «In che gingheri!» «Una vera signora, eh?» disse Nadine girando sui tacchi. In pelliccia, calze e scarpette aveva l'aria elegante e quasi femminile. «Di qua!» disse Vincent. Traversò con decisione il piazzale e si fermò davanti a una piccola automobile nera. «Non c'è male, eh?» «È nostra?» disse Henri. «Sì, Luc alla fine ce l'ha fatta.» «Ci sarà maledettamente utile», disse Henri aprendo lo sportello. «Mi ci porterai in giro?» chiese Nadine. «Sei matta», disse Vincent. «È uno strumento di lavoro.» Henri aveva fretta di ritrovarsi al giornale, ma Paul aveva senza dubbio telefonato alla stazione e sapeva che il treno era arrivato in orario. Ora aspettava con gli occhi fissi sull'orologio spiando i minimi rumori. Quando ebbero lasciato Nadine davanti all'ascensore in mezzo ai suoi bagagli, Henri disse: «A rifletterci meglio, vorrei prima passare un momento a casa mia.» «Ma i compagni t'aspettano», disse Vincent. «Digli che sarò al giornale tra un'ora.» «Allora ti lascio la Rolls», disse Vincent. Henri spinse con rincrescimento il portone. Prima ancora che avesse bussato, Paul aprì. «Sei tu? Sei proprio tu?» Restò un momento immobile tra le sue braccia, poi si tirò indietro. «Stai bene? Sei abbronzato? Non è stato troppo faticoso questo ritorno?» Sorrideva, ma un piccolo muscolo le sussultava all'angolo della bocca. «La tua valigia, dov'è?» «È giù, nell'automobile, perché l'Espoir, forse lo sai, ha ottenuto un'automobile e Vincent è venuto a prendermi. Allora telefono alla portiera perché la faccia portar su.» «Ma no, non vale la pena», disse Henri e aggiunse rapidamente: «Come è passato questo mese? Non ha fatto un tempo troppo cattivo? Sei uscita un po'?» «Un po'», disse Paul in tono evasivo. Il suo sguardo era diventato fisso. «Che hai visto? Cosa hai fatto? Raccontami.» «Oh, non ha nessun interesse. Non parliamo di me.» Poi riprese vivacemente, ma con voce distratta: «Saprai che il tuo libro è un trionfo.» «Non ne so niente. Va bene, davvero?» «Oh, i critici non l'hanno capito affatto, ben inteso, ma hanno sospettato il capolavoro.» «Ne sono contento», disse con un sorriso d'obbligo. Il viso di Paul si animò. «Ho molto pensato in questo mese e ho capito molte cose. Mi dispiace di averti fatto quella scena prima della tua partenza. Mi dispiace sinceramente.» «Oh, non parliamo di quello», disse Henri. «Prima di tutto non ho mai fatto nessuna scena.» «Sì, e ti ripeto che mi dispiace. Mi sono resa conto che devo esserti stata spesso di gran peso. Ora capisco che tu abbia voglia di ritrovare un po' di solitudine. Puoi rassicurarti. La solitudine, la libertà, te lo prometto.» Guardò Henri con intensità. «Sei libero, amore mio. Sappilo bene. E del resto ne hai già avuto una prova in questo mese, no?» «Sì», disse Henri. «Allora resta qui. Non avrai da rammaricartene, te lo giuro. Vedrai che lavoro si è fatto in me e come d'ora in poi ti sarò leggera.» S'alzò e tese la mano verso il telefono. «Il nipote della portiera ti porterà sulla valigia.» Anche Henri s'alzò. «M'aspettano al giornale», disse. «Sono giusto venuto a darti un bacio.» «Lo capisco benissimo», disse Paul teneramente. «Adesso», pensò Henri sedendo al volante della piccola automobile nera, «si ingegnerà a provarmi che sono libero.» «Oh, ma non ci durerò molto da lei», si promise con rancore, e decise: «Da domani mi occuperò di regolare questa faccenda.» Per il momento non voleva pensare a lei. Era così contento di ritrovarsi a Parigi. Che idea di andare a cercare in Portogallo un passato morto e sotterrato quando il presente era così gioiosamente vivace!